You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare non a vanvera contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo spazio di Radio 24 dedicato a chi ha le radici altrove, persone che provengono da altri paesi e vivono stabilmente da tempo in Italia, oppure persone che hanno i genitori stranieri ma sono completamente in realtà italiani. Ancora spesso abbiamo invitato in trasmissione persone che hanno una parte della famiglia che proviene da un altro paese. Mai ci eravamo finora occupati invece delle persone adottate a livello internazionale. È un esperimento anche sociale che in Italia va avanti da più di 50 anni, quindi si può anche tracciare un bilancio di queste adozioni internazionali. E allora abbiamo il piacere di avere ospite questa sera una delle prime persone adottate a livello internazionale in Italia. Maria Forte, buonasera. Buonasera a tutti. Lei, come dicevo, è una delle prime persone che è stata adottata da una coppia italiana all'estero, è così? Sì, esattamente. Lei è stata adottata negli anni, in primi anni 80, quanti anni aveva e da dove proveniva? 6 anni, avevo 6 anni e provenivo praticamente dall'India. Siamo felici di averla con noi a tavola. Qual è il piatto che ci ha portato questa sera? Porto 2 piatti, sono lasagne alla bolognese e pollo al curry, perché mi piace spesso mescolare un po', diciamo, la cucina italiana con la cucina delle mie origini, anche se in realtà so cucinare molto poco della cucina delle mie origini, però il curry mi piace particolarmente. Lei è anche referente del gruppo Figli Adottivi Adulti del CHAI, che è il Centro Italiano Aiuti dell'Infanzia. Un gruppo che di confronto su tematiche comuni di persone che sono state adottate, che ormai sono adulte, e quindi a distanza di anni possiamo anche vedere come si è trasformata la loro vita, quali sono state le esperienze, e cercheremo di capirlo anche attraverso lei. Il CHAI, dicevamo, è un'associazione, una onlus che si occupa di adozione internazionale ma anche di cooperazione e di altro. Tra l'altro, in questi giorni proprio lancia una campagna in India contro i matrimoni precoci. Dal 17 di marzo al 12 di aprile c'è un numero solidale, il 45505, a favore di 400 bambine in India, proprio il suo paese d'origine. Esattamente, sì. Le prime adozioni, mi pare di capire, in Italia sono state proprio in India. Sono state, il CHAI è iniziato con l'India e con la Corea. Sono stati i primi 2 paesi con cui ha fatto adozione. E le prime adozioni sono di persone che ormai hanno una certa età, insomma ci sono persone, sì, anche di 50 anni, no? Esattamente, sì. Lei come mai poi ha lavorato in questo settore? È un caso? È un caso, è un caso, in quanto mi sono avvicinata al mondo delle adozioni attraverso l'università, con un professore che era particolarmente attento e sensibile al tema dell'adozione, e mi ha chiesto di collaborare con lui a una ricerca proprio sull'età adulta dei figli adottivi. E da qui quindi è entrata anche il mio interesse, la mia passione ad approfondire questa tematica, tanto è vero che poi ho fatto una tesi proprio sull'adozione internazionale. E tra l'altro mi diceva che avete fatto un raduno con questi adulti adottivi al quale tutti dovevano portare un piatto, no? Sì, ognuno di noi doveva portare un piatto tipico del proprio paese d'origine. In realtà poi ci siamo trovati lì dove solo due persone hanno portato un piatto tipico e tutti gli altri hanno invece portato un piatto italiano. E quindi questa identità anche in cucina sovrasta spesso anche le altre. Sì. Lei, dicevamo, è arrivata in Italia all'età di 6 anni e prima dove aveva vissuto? In istituto. Dalle suore di Madre Teresa di Calcutta a Madras, che è il mio paese d'origine, che si trova al sud-est dell'India. Ha qualche ricordo di quell'istituto, di quegli anni e anche dell'incontro con i genitori, i nuovi genitori? Allora, dell'istituto ho proprio dei flash, ho rimosso praticamente tutto. Dell'incontro invece con i miei genitori, sì, mi ricordo abbastanza bene che sono andata immediatamente in braccio a mio padre adottivo, e non ne volevo sapere di mia madre e delle figure femminili, proprio le rifiutavo, non volevo neanche salire in braccio, neanche toccarle, né niente. Si è fatta un'idea del perché? Io sì, mi sono fatta questa idea, secondo me ho vissuto per 6 anni in istituto dove c'erano solo figure femminili, solo suore. La relazione con la figura femminile ce l'avevo ben presente. Invece con la figura maschile era proprio una parte nuova, no? Una relazione completamente diversa da esplorare, per cui ero incuriosita e quindi mi sono fatta affascinare da mio padre e quindi immediatamente sono andata in braccio a lui, mi dava sicurezza in qualche modo. You've got to win a little. And always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. Mi diceva che quando è stata adottata per il primo mese ha parlato tantissimo, no? Però parlava la sua lingua d'origine, l'hindi. Sì, l'hindi probabilmente era un dialetto. Proprio del paese dove stavo. Parlavo tantissimo, era una vera chiacchierona, tanto è vero che i miei insomma erano anche un po' imbarazzati perché a un certo punto mi sono resa conto che nessuno mi capiva, né i miei genitori né chi stava con me. Per cui dopo un mese ho iniziato a stare zitta, sono stata in silenzio e per un bel po' di tempo ho ascoltato questa nuova lingua e ho cominciato a farmela mia. Tanto è vero che dopo improvvisamente ho iniziato a parlare italiano, così, di botto. Quindi è stato un periodo senza parlare praticamente? Sì, ho fatto quasi un mese senza parlare. Ho resettato un po' quello che è stata la mia vita pregressa, l'adozione, tra cui appunto anche la lingua, e ho iniziato ad adattarmi a questa nuova realtà e quindi anche a questo nuovo modo di comunicare, quindi attraverso l'italiano. Poi con la mamma il rapporto è migliorato? Più o meno. Nel senso che comunque in adolescenza, e credo sia abbastanza normale, l'ho messa abbastanza in crisi. Abbiamo avuto diversi momenti di scontro e di confronto. E tutt'oggi a volte abbiamo dei momenti in cui non andiamo così particolarmente d'accordo. Ma credo che sia normale, ecco, che faccia parte della crescita di ognuno di noi e della voglia di indipendenza di ognuno di noi, no? Questo è indubbio, ma queste difficoltà in qualche maniera le collega anche all'esperienza di adozione, magari in quegli anni, oppure erano semplicemente così difficoltà legate all'adolescenza che ha qualsiasi adolescente? Ma io credo fondamentalmente che trattandosi di un'adozione, essendo una delle prime adozioni proprio che abbiamo fatto qui in Italia, sicuramente i genitori adottivi non erano così preparati come sono preparati oggi, per cui certe dinamiche che si sono venute ad innescare tra me e mia madre e anche tra me e i miei fratelli, tipici anche in qualche modo della mia storia adottiva, non sono state così accolte e riconosciute da parte dei miei genitori, che hanno così creato una sorta di fraintendimento anche. Tanto è vero che ancora oggi mia madre a volte mi rimpasta certe frasi che ho detto in adolescenza senza rendersi conto che comunque erano frasi, diciamo, un po' classiche, un po' tipiche di un adolescente adottivo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Give a little, take just a little. Let your poor heart bleed a little, but baby, that's the glory of love. Cry a little, sigh just a little. Let your cloud roll by, baby, little, but baby. Bentornati a Indovina chi viene a cena, siamo in compagnia di Maria Forte, una delle prime italiane adottate a livello internazionale, stiamo parlando con lei della sua esperienza di bambina che arrivava dall'India in Italia. E diceva appunto che aveva dei fratelli figli biologici della coppia che l'ha adottata? Sì, era abbastanza tipico all'epoca dare in adozione bambini a famiglie che avevano già un figlio biologico presente. E com'è andato il rapporto con i fratelli? Allora, con mio fratello, cioè il figlio biologico, diciamo, dei miei genitori adottivi, è andata benissimo. Mi ha proprio preso sotto la sua ala e ho giocato tantissimo e ancora oggi ho un ottimo rapporto con lui, nonostante abitiamo lontano, perché mio fratello abita in Friuli e io abito appunto in Lombardia. Invece con mia sorella è sempre stato un pochino più complicato. Mia sorella è adottiva anche lei, arriva dalla Corea, è arrivata prima di me, è arrivata che aveva 6 mesi e quindi aveva già creato una relazione importante con appunto mio fratello e i miei genitori. In qualche modo sono arrivata io a rompere le uova nel paniere e quindi lei questa cosa un po' probabilmente insomma l'ha vissuta male. Questi casi, no? Sembrano tipici in realtà di qualsiasi famiglia, no? Quanto si può ricondurre all'adozione e quanto invece è riconducibile a dei processi normali tipici di ogni famiglia? Glielo chiedo quasi più come referente di questo gruppo figli adottivi adulti del CHAI che come figlia adottiva. Sì, ma io credo che queste dinamiche siano normalissime in qualsiasi famiglia dove arriva un bambino, che arrivi attraverso la nascita biologica piuttosto che attraverso l'adozione. Credo che cambino molte le aspettative dei fratelli nel momento in cui vanno a creare una relazione col nuovo fratello, ovvero se arriva in famiglia un bambino adottato ovviamente ha già una storia pregressa alle spalle con cui tutta la famiglia e anche i fratelli devono fare i conti con questa storia. C'è questa differenza ovviamente appunto della storia pregressa, quanto la famiglia e i fratelli l'hanno fatta propria e l'hanno in qualche modo condivisa e quanto no, quanto sono stato in grado di fare della propria famiglia una famiglia più allargata, più aperta, dove hanno sposato in qualche modo appunto anche la storia del figlio adottivo. In questo gruppo di confronto di adottivi adulti parlate di alcuni temi comuni, no? Quali sono i temi che vengono più alla luce? I temi principali sono appunto proprio il rapporto con i genitori adottivi e i fratelli e in relazione anche al bisogno del figlio di cercare le proprie origini, in modo particolare di cercare magari i genitori biologici. Spesso ci siamo accorti all'interno del gruppo che c'è un fortissimo senso di colpa da parte dei figli adottivi di manifestare questo desiderio di ricerca delle proprie origini e anche di fare magari semplicemente il viaggio di ritorno alle origini. Un senso di colpa nei confronti dei genitori adottivi, come se i genitori adottivi non fossero stati così attenti e capaci di colmare questo vuoto. In realtà non è così, il figlio adottivo non dovrebbe sentirsi in colpa, ma è una cosa naturale, normale, anzi fa parte del percorso adottivo che un figlio adottivo cerchi le proprie origini, cerchi le proprie radici. Lei l'ha mai fatto, l'ha mai cercata ed è poi tornata in India? Io sono tornata in India quando avevo 25 anni. L'ho sempre chiesto ai miei genitori adottivi di tornare in India, soprattutto nell'età dell'adolescenza l'ho richiesto. Però col senno di poi devo dire che condivido la scelta che hanno fatto di non portarmi immediatamente in India, ma questa è un'opinione mia ovviamente personale. Condivido questa scelta perché dopo ho capito che loro hanno sempre rimandato questo desiderio mio di tornare in India proprio per darmi la possibilità di creare una base sicura con loro, una relazione significativa e importante con loro, da cui dopo partire e affrontare appunto questo mio viaggio da adulta, da matura, e fare questo viaggio appunto di ricerca delle mie origini. E com'è stato questo viaggio in India? Ha confermato alcune sensazioni che io mi portavo dentro. È stato un viaggio molto forte, molto impegnativo, a cui a dire la verità non ero così preparata. E tornando indietro magari chiederei appunto l'aiuto, un sostegno psicologico, insomma, di esperti. E ho fatto questo viaggio andando proprio nelle case, facendomi ospitare nelle case degli indiani, quindi non era un viaggio turistico ma era un viaggio di ricerca proprio della cultura indiana e del modo di vivere degli indiani. Quali conferme ha avuto? Ma allora, innanzitutto molti odori li ho proprio sentiti miei, familiari, capivo che facevano parte della mia storia, odori che qua in Italia non ci sono, non esistono assolutamente, certi profumi, certi anche modi di fare, no? Degli indiani in qualche modo, mi sono ritrovata molto in loro, mi sono in qualche modo rispecchiata in alcune donne. E è riuscita a tornare all'istituto dove ha vissuto 6 anni della sua vita? Sì, sono tornata perché avevo voglia proprio di capire e vedere dove appunto ho vissuto per 6 anni. Purtroppo l'istituto non l'ho trovato in quanto l'hanno chiuso, perché da quando è morta Madre Teresa di Calcutta hanno radunato la maggior parte degli istituti appunto di Madre Teresa, li hanno tutti radunati a Calcutta e quindi non ho ritrovato nulla purtroppo. Prima, quando parlavamo, prima della trasmissione, mi diceva che anche fra voi adulti, adottivi, vi chiedete se siete completamente italiani e la risposta non è totalmente univoca, no? No, assolutamente. Spesso i psicologi in qualche modo ci dicono: ma voi quanto vi sentite italiani e quanto vi sentite indiani o coreani o thailandesi, eccetera. E tutti abbiamo detto che non si riesce a dare una percentuale, no? Se siamo un 90, 80 o 60%. Sicuramente non siamo italiani al 100%, perché o l'aspetto fisico o il nostro modo, o per la nostra storia pregressa magari significativa di 5, 6, 8 anni, comunque c'è sempre qualcosa che ci richiama le nostre origini, che abbiamo dovuto integrare con la nostra italianità. Certo è che in adolescenza un ragazzo che fisicamente è diverso, perché ha il colore della pelle particolarmente scura, questo può creare delle difficoltà. Io mi ricordo che facevo di tutto ovviamente per cercare di assomigliare ai miei coetanei, anche proprio fisicamente. Per cui, non so, intanto mi mettevo il borotalco, piuttosto che anche nell'abbigliamento mi sono sempre vestita uguale agli altri miei amici e amiche. Di indiano non volevo assolutamente niente. La storia di successo sull'adozione di cui si parla più apertamente in Italia, quella di cui si discute di più, è quella del calciatore Mario Balotelli, no? Però ci sono anche delle storie che non sono andate a buon fine, purtroppo. Ci sono anche, e lo ricordiamo, delle storie sospese come quella del Congo. Ci sono dei 24 famiglie italiane che aspettano da più di 2 mesi di poter tornare a Kinshasa dai loro figli con già le adozioni praticamente concluse. Quali sono le cose che lei consiglia a chi si vuole avvicinare a questo percorso come genitore, futuro genitore adottivo? Ma io innanzitutto consiglio alle coppie che si avvicinano appunto al mondo dell'adozione di non soffermarsi mai al primo colloquio con l'ente autorizzato. In Italia ci sono 64 enti autorizzati, ce ne sono veramente tanti, fin troppi, a mio avviso e anche a avviso di Chai, comunque ce ne sono veramente troppi, e le coppie sono spaesate. Per cui io consiglio vivamente di andare a sentire almeno un 4-5 enti autorizzati, in modo tale da scegliere l'ente che veramente a cui loro con cui condividono veramente i valori e il modo di operare. Diffiderei assolutamente di enti troppo piccoli, perché ti possono fare un sostegno, certo, verso l'accompagnamento dell'adozione, ma non hanno tutto quel supporto fondamentale nel post-adozione. Noi abbiamo tantissime famiglie che hanno adottato con altri enti e che dopo l'adozione si sono sentiti da soli, si sono sentiti abbandonati, soprattutto davanti alle difficoltà che possono emergere con l'arrivo del bambino ovviamente in famiglia, perché l'arrivo del bambino in famiglia ovviamente porta a sciogliere quegli equilibri di coppia. E queste famiglie si sono sentite da sole e si sono rivolte al CHAI perché noi abbiamo effettivamente tutto un supporto, un accompagnamento della famiglia nel post-adozione. Non li abbandoniamo praticamente mai, tanto è vero che offriamo dei servizi da quando il bambino arriva in famiglia a quando poi il figlio adottivo diventa adulto, come il gruppo. Quindi in genere grandi enti storici, magari c'è il CHAI, c'è il CIFA, c'è l'AIBI, ce ne sono altri, però insomma i grandi enti in qualche maniera garantiscono dei colloqui continui prima e dopo, che come diceva è un periodo difficile. È un periodo molto difficile e secondo me bisogna veramente informarsi fino a che punto l'ente ti accompagna nell'adozione, perché l'adozione non è che finisce quando arriva il bambino in famiglia, ma anzi l'adozione inizia proprio quando il bambino arriva in Italia. Mi verrebbe poi da dire che i tempi sono lunghissimi, però bisogna anche un po' diffidare dei tempi dimezzati che vengono offerti di alcuni enti, perché magari no, è d'accordo, credo. Sì, assolutamente d'accordo, anzi bisogna diffidare quegli enti che ti promettono le adozioni brevi, veloci e in poco tempo, perché vuol dire che c'è qualcosa che non quadra e c'è qualcosa che non è chiaro. I tempi in questa fase sono necessari anche per alcuni paesi perché si sia certi che l'adozione sia trasparente, esatto, che non si stia adottando, diciamolo fuori dai denti, il figlio di qualcuno da qualche parte del mondo, esatto, che magari è povero e che accetta, esatto, una somma di denaro. E questo avviene attualmente, quindi bisogna stare molto attenti. Ma lei consiglierebbe l'adozione da figlia adottiva? È un percorso che ha mai pensato di poter lei stessa percorrere come madre? Sì, ci ho pensato diverse volte e ce l'ho ancora lì come sogno. E chissà, magari riusciremo a realizzarlo, mi piacerebbe molto, sì. Lei adesso è mamma di due bambini, ha avuto mai l'occasione di parlare delle sue origini con i suoi figli? Sì, soprattutto col mio grande, io ho due bambini, ho una bimba di 4 anni e un bambino di quasi 7. E col bambino di quasi 7 anni, Francesco, è un bambino molto riflessivo e attento, e con lui già da un paio d'anni abbiamo iniziato a fare delle riflessioni rispetto alla mia storia adottiva. Ha incominciato a pormi delle domande alle quali io non avevo più pensato da anni, che avevo già chiuso dentro un cassetto e pensavo che non avrei più riaperto. Invece lui mi ha dato la possibilità di ripensare alla mia storia, ha cominciato a chiedermi perché sono tanto diversa dai nonni, perché non sono nata dalla panca della nonna e dove sono finiti i miei genitori biologici. E quindi risposte che lei è riuscita a dare? Le abbiamo cercate insieme, io gli ho detto proprio la verità, gli ho detto guarda, io non lo so dove siano i miei genitori biologici, i miei genitori in questo momento sono i miei genitori adottivi, sono quelli che mi hanno cresciuto, che mi hanno fatto diventare quello che sono, che mi hanno dato queste possibilità, e quindi loro sono i vostri nonni. E mio figlio mi ha risposto, beh, è vero, loro sono i nostri nonni, però allora abbiamo anche dei nonni in India, E quindi abbiamo dovuto un attimo soffermarci anche su riflettere su questo con loro. Quindi la complessità della vita è entrata anche a far parte della storia dei suoi figli, come è giusto che sia. Sono storie bellissime, affascinanti, complesse queste delle adozioni che abbiamo in parte affrontato questa sera, perché giustamente è un tema che Indovina chi viene a cena non aveva mai affrontato, ma mi è sembrato giusto, con una persona fra le prime adottate in Italia, cercare di capire qual è stata la storia dell'adozione in Italia. Io ricordo ancora che il paese da cui proviene Maria Forte, che ci ha fatto compagnia questa sera, l'India, è il paese a cui si è dedicata la campagna CHAI contro i matrimoni precoci. Dal 17 marzo fino al 12 aprile avete tempo per aiutare questa ONLUS che si dedica con serietà all'adozione internazionale e alla cooperazione, al numero 45505, a favore di 400 tra bambini e adolescenti delle isole a Andamane in India. Grazie Maria Forte per essere stata con grazie noi questa sera. Voi, buona serata. Per la compagnia, grazie. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.